Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Mica un personaggio qualunque, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, qui oggi a Storielle, non lo sono mai ovviamente i personaggi che passano qui da Storielle, mai che non abbiano grande spessore, però in questo caso, attenzione, udite udite, l'ospite che saluterò tra pochissimo è praticamente considerato un eroe europeo, ha avuto proprio questo titolo, ed è una delle 50 persone, l'unico italiano, credo, una delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Quindi poi ci dirà la sua ricetta, perché ci interessa molto, salvare il pianeta non è cosa da tutti. Ma prima ancora di dire il suo nome, di svelarvi di chi si tratta, vorrei che, come sempre, qui a Storielle, si identificasse attraverso tre aggettivi, un identikit, insomma, così sintetico. Prego, ospite. Ma io sono in imbarazzo, perché quando uno deve darsi degli aggettivi è tentato comunque a laudarsi un po' troppo, no? Ma se, allora se è opportuno. C'è un detto piemontese, sì, che ci porta sempre coi piedi per terra, che dice: Iasut Cavour slaudu dalur. Traduco: ecco, gli asini di Cavour, no? Sì. Lodano da soli. Ma se lo meritano, cosa posso dire? Sì. Allora dirò delle cose che non sono così. Allora, mi sento ogni tanto lunatico. Lunatico. E questo la mettiamo. Sì. Poi che cosa posso altro dire? Che sono un testone. Testone. E poi. Una buona ce n'è di definizione. E poi dire che sono buon custaio e... La palissia, pleonastico quasi. Me la cavo con poco. Ecco, buon gustaio, e questo, insomma, già è forse quello che ci porta più sulla pista, insomma, per capire di chi si tratta. Ma in realtà questo eroe europeo, questo italiano che è in grado di salvare il pianeta insieme ad altre 49 persone nel mondo, è Carlo Petrini o Carlin Petrini? Alla fine come preferisci essere chiamato, Carlo? Fa lo stesso. Carlin è più affettuoso, poi tu sei un piemontese. Lo portava già mio nonno, quindi insomma Carlo ti identifica di più, insomma, con sì, un bene, dai, Carlo, dai. Carlo, che poi è un nome importante. Carlo Petrini, come possiamo dire, a parte queste definizioni che si è dato e questi titoli che vi dicevo veramente altisonanti ma ovviamente meritati, il guru dell'enogastronomia mondiale, comunque il fondatore di Slow Food che ormai conoscono tutti, è Carlo? Sì, ormai un movimento che ha 20 anni di vita. 1989, no? Sì, glorioso. Sì, sì. E che nella sua breve storia ha realizzato con calma una rete molto diffusa per il mondo di appassionati della cultura alimentare, ma anche di produttori. Migliaia di contadini, di pescatori, di nomadi, di trasformatori e nello stesso tempo di persone che hanno a cuore queste tematiche. Quindi da un movimento, come possiamo definirlo, culturale, internazionale comunque, che tu hai fatto nascere nel 1989 a Parigi, no? Il manifesto è stato presentato. Sì, di questa, e la data è significativa perché era il secondo centenario della Rivoluzione Francese. Uh-huh. E la Rivoluzione Francese... 1789, certo. È la data di nascita della ristorazione moderna. Vale a dire che questi cuochi dell'aristocrazia che si trovano senza lavoro fanno di necessità virtù e cominciano ad aprire nella Francia rivoluzionaria le loro prime botteghe, ed erano dei punti che venivano chiamati restaurant, dove si produceva il brodo ristoratore. Ah. Il termine ristorante viene da lì, arriva quindi? Da ristoratore, ed era un brodo che veniva, un courbouillon che veniva offerto alla cittadinanza. Dopodiché ovviamente l'appetito viene mangiando e questi chef di lì in avanti hanno incominciato a impostare quella che è poi la ristorazione attuale, ecco. Ma dobbiamo sapere che prima della Rivoluzione Francese non c'erano i ristoranti, c'erano le taverne o le locande di posta, dove si cambiavano i cavalli, ecco. il concetto di ristorante borghese nasce appunto dalla grande rivoluzione che dal potere dell'aristocrazia diventa il potere della borghesia, ecco. Quindi una democrazia tutto tondo, una rivoluzione diciamo tutto tondo nel 1789. Vi do solo alcuni dati. Sì. Nel 1790, proprio alla rivoluzione, l'anno dopo, i primi ristoranti erano qualcosa nella città di Parigi, qualcosa come una cinquantina. Al 1810 erano già 300. 1825 erano già più di 2000. Quindi possiamo dire una rivoluzione dei costumi che poi nei secoli successivi fino ad oggi si è consolidata a livello planetario, ma il fatto di andare lì a fondare Slow Food a Parigi aveva questo significato storico. Infatti, diciamo che l'hai fondata a Parigi all'Opéra Comique nel 1989, sì, ma sì. Quella è stata quindi un riprendere, un omaggiare anche la rivoluzione francese, quella rivoluzione che ha portato anche nella ristorazione, ma tu stesso sei considerato a livello internazionale un rivoluzionario, no? Quello che ha creato la nuova filosofia del cibo dalla quale poi non si può più tornare indietro, così dicono poi Carlo Petrini. No, bisogna esagerare. Semplicemente il buon senso di portare dentro le tematiche alimentari un'attenzione che non è e non si deve chiudere solo nella bontà del piatto, ma anche nel campo agricolo, perché la materia prima va rispettata, nella difesa degli ecosistemi, purtroppo stiamo perdendo migliaia di specie, di frutta, di verdura, di razze animali, nella capacità di non inquinare le acque, i terreni, cioè ci siamo resi conto che parlare di cibo non era solo parlare della ricetta, ma era di parlare, si trattava di parlare di una cosa molto complessa, che riguarda ambiente, economia, storia, antropologia, ma nello stesso tempo anche agraria, zootecnia, insomma una scienza complessa e multidisciplinare, ed è per questo motivo che nel 2003 abbiamo dato via alla prima università di scienze gastronomiche. Storielle. Storiacce. Siamo in presenza, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, niente po' di meno di un eroe europeo, una delle 50 persone che potrebbero salvare il pianeta, alias Carlo Petrini, Carlin Petrini, fondatore del grande movimento internazionale di enogastronomia, potremmo dire di ecogastronomia, che è Slow Food, ormai davvero conosciuto in tutto il mondo. Ci ha raccontato un po' perché l'ha fatto nascere 20 anni fa, nel 1989, in omaggio alla Rivoluzione Francese, 1789, non solo perché lui, in fondo, al di là degli aggettivi con cui si è definito, è un rivoluzionario, ma perché ci ha raccontato, questa è una cosa in più da sapere, che la ristorazione, il termine restaurant, ristorante, è nato proprio con la Rivoluzione Francese, con i primi ristoranti dove davano questo brodo ristoratore. Però adesso, Carlo, ritorniamo invece un po' storicamente su di te, sulla tua storia. Tu sei piemontese, questo si sente abbastanza palesemente, nato a Bra, in provincia di Cuneo, sì, nel 1949. Sì, siamo molto vicini alle Langhe piemontesi, quindi attraversato il Tanaro entriamo nella zona delle grandi vigne, del Barolo, del Barbaresco. E quindi quella parte del basso Piemonte collinare dove l'enologia ha una sua storia, insomma. E tu vivi ancora a Bra? O? Assolutamente, per l'amor del cielo. Quindi tu che parli di radici, di rilocalizzazione dell'agricoltura, dei prodotti, eccetera, quindi sei uno proprio coerentemente attaccato alle sue radici, no? Assolutamente, certo. Ma insomma, anche perché fortunatamente viviamo in un momento storico dove puoi benissimo essere inserito nella tua comunità di origine e dialogare con il mondo, perché con i nuovi mezzi di comunicazione fortunatamente abbiamo queste possibilità, no? Non è più, come dire, la necessità di andare nel grande centro metropolitano perché così per essere in contatto con la vita e col mondo. No, no, no, no, no. E poi poi perché per quello che riguarda la nostra filosofia, la provincia, non solo italiana, è un luogo dello spirito, è anche una dimensione di vita meno frenetica. Poi sappiamo benissimo che la frenesia può anche arrivare qui, però al mattino uscire di casa in 300-400 metri, trovare il bar da fare colazione, volti che conosci, la battuta, il giornalaio, essere in ufficio a piedi, che civiltà. Che invidia. Senti, quindi Abrassi vive, sei vissuto bene e ha formato la tua personalità. E che cosa ti ha portato? Poi tu hai fatto gli studi di sociologia a Trento. Cosa ti ha portato a diventare quello che sei diventato, Carlo Petrini? Ma non lo so, la passione, sì, la passione. Duplice, da un lato di una generazione che gli piaceva anche un po' sognare, ecco, poi ha fatto tanti errori la mia generazione, però era anche una generazione che sognava e non ho voluto rinunciare a questo. Dall'altro il territorio, perché come ti dicevo prima, essendo un territorio vocato su queste tematiche, io mi ricordo che da bambino a casa dei nonni ti educavano già a sentire le sfumature dei vini e la grande festa della domenica, le ravioli, gli agnolotti, che vada bene, non sono ricchi come oggi, avevano il ripieno che erano gli avanzi della settimana che veniva chiuso con questa pasta, ma era una festa, insomma. Allora non ho avuto difficoltà, diciamo, a cimentarmi su quel fronte lì. Dopodiché il piacere non è antagonista al sogno, è un impegno, certo. Ecco. Si può essere impegnati avendo anche una buona dose di piacere. Ci mancherebbe. Ma Carlo, poi tu quindi sei nato nel 1949, nel 68 avevi 20 anni, tu dicevi la mia generazione è quella che aveva dei sogni. Adesso trovi che i giovani invece questo aspetto così importante come motore anche per muoversi verso il futuro non ce l'abbiano più? No. I giovani sono anch'essi straordinari, ma poi dopo vedi, è un po' una ruota che gira, no? Ogni generazione porta caratteristiche diverse, peculiarità diverse. Vuoi perché con l'università abbiamo un contatto con queste giovani generazioni, vuoi perché vedi, l'ambizione mia è passare il testimone di questo movimento alla nuova generazione, no? Perché una leadership è forte non se tiene il cadreghino fino alla morte, ma se un po' come succede con la politica, ecco, con se garantisce il passaggio, no? Allora devo dirti che io sono abbastanza sereno perché vedo della gente che ha questa passione che avevo io alla loro età, ovviamente con un taglio diverso, però non cambia la sostanza. Le generazioni più o meno si assomigliano tutte e uno dei grandi temi di questo nuovo secolo sarà il rafforzamento dei rapporti intergenerazionali, non chiudersi dentro, come dire, la generazione di appartenenza e in maniera egoistica non colloquiare con gli altri, ma viceversa che un po' di buon senso garantisca che non ci si chiuda a compartimenti stagno. Carlo Petrini, quindi tu sei, diciamo così, tradizionalista sulle questioni che riguardano il cibo, l'alimentazione, il tipo di produzione agricola, di produzione alimentare, per la sostenibilità, l'ecogastronomia, eccetera, eccetera. E su cosa sei? Già l'hai detto adesso, questo era uno degli aspetti, ma su cosa ti senti invece non tradizionalista e più aperto rispetto al mondo attuale, ai tuoi valori? C'è un dibattito che sta diventando un tormentone tra tradizione e innovazione, no? Io penso che la tradizione è un'innovazione ben riuscita. Cosa significa? Significa che non dobbiamo buttare via tutta la nostra memoria o quelle delle generazioni precedenti come se si butta via il bambino con l'acqua sporca. Bisogna semplicemente saperlo riproporre, ecco, riportarlo a una vita reale. Tu, caro Petrini, come giornalista hai collaborato con diversi giornali, ultimamente soprattutto per il gruppo L'Espresso e La Repubblica, hai scritto diversi libri, hai ricevuto varie lauree honoris causa, sei plurilaureato in giro per il mondo, anche non solo in Italia. So che in California, quando vai nelle università, veramente ci sono delle ovazioni nei tuoi confronti. Invece questo evento Terra Madre, varie edizioni, no? Mi sembra che ci siano state sì, in questi sì, anni. Sì. Di cosa si tratta esattamente? Beh, questo è l'elemento che ha cambiato la vita non solo a me, ma a tutti quelli che lo sono entrati in contatto. Hai fatto anche un film documentario con Ermanno Olmi, il regista. Sì, con Ermanno Olmi, che l'ha documentato con il suo tocco poetico, come solo lui sa fare. Comunque oggi è una vera e propria rete planetaria di migliaia e migliaia di comunità del cibo che operano in 153 paesi del mondo e che sono unite da un sentimento comune e che quando si trovano, io ho definito un sentimento di intelligenza affettiva, sai che c'è l'intelligenza razionale. Certo, quella sociale, emotiva. Che va sempre bene, ma logica. Quella affettiva è molto importante. Certo. Specialmente nei confronti di persone che vuoi per il loro lavoro, vuoi per mille motivi, si sentono soli nelle loro imprese. Poter venire, incontrare, scambiare queste esperienze funziona. Nello stesso tempo questa rete è austeramente anarchica, cioè non accetterebbe mai un organigramma gerarchico o forme di coercizione. Perché? Perché non si può governare una complessità come quella di Terra Madre, quindi si autogovernano. Io penso che in questo momento c'è bisogno anche di soggetti come questi, perché vedi, una delle carenze forti che avvertiamo tutti è la carenza di democrazia partecipativa, cioè contiamo sempre più poco, no? Però, caro Petrini, tu ti sei praticamente assunto, ti hanno fatto assumere una grande, grandissima responsabilità, visto che nel 2008 sei comparso nella lista del prestigioso quotidiano inglese The Guardian come unico italiano tra le 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Ora tu hai questa responsabilità di dirci almeno in sintesi qual è la tua ricetta per salvare il pianeta. A questo punto... Allora, cominciamo a ridimensionare tutto. Se io sono una delle 50 persone in grado di salvare il mondo, siamo molto malmessi. Bene, siamo in buone mani. Sì. Quindi io spero che il Guardian, voglio dire, abbia esagerato, primo elemento. Secondo elemento, le ricette ormai sono patrimonio di migliaia e migliaia di persone che incominciano ad applicarle, va bene? Quelle gastronomiche e quelle non, sì. E quelle gastronomiche e che sostanzialmente, se vogliamo ridurlo a poche sì, a un poche decalogo, battute, poche battute, è quello di una sostenibilità nel proprio modo d'essere, nei consumi, nei rapporti con gli altri, che non distrugga il patrimonio da trasmettere alle future generazioni, sia in campo ambientale che energetico che dei saperi. Quindi questa pratica qui è una pratica che fortunatamente nel mondo si va diffondendo. In estrema sintesi, ecco, una dimensione di maggiore generosità, di attenzione verso il bene comune, alla fine paga. Carlo Petrini, tu, fondatore di Slow Food, presidente nazionale e internazionale, quindi di questa specie di, come si può dire, di multinazionale virtuosa, ecco. Ora, a questo punto, quella che senti è la lampada di Aladino. Se tu dovessi esprimere un desiderio, che cosa diresti? Avere la soddisfazione di vedere che questo mondo si pone davanti a certe piaghe, come quella ad esempio della malnutrizione e della fame, in un processo virtuoso che in maniera determinata va a ridurre queste ingiustizie. Ecco. Purtroppo sono figlio di un'epoca dove questa percentuale di malnutriti è aumentata in maniera esponenziale. Penso che questa sia la grande scommessa degli anni a venire. Se certo potessi vedere un'inversione di rotta, sarebbe già una gran bella soddisfazione. Noi ce lo auguriamo per te e per noi, ovviamente. Poi, visto che dicevamo sei tra queste 50 persone salveranno il pianeta, noi contiamo moltissimo su di te. Grazie Carlo Petrini. Grazie a voi. Ciao, grazie. Grazie per la fiducia.